Prima di andare a dormire dovrei dire la preghierina, per le poche cose che hai il Padre Eterno ringrazierai. Prima di andare a mangiare in silenzio ti segnerai, perché tu sei un privilegiato, c'è chi sta peggio, c'è chi è nei guai. È qui che comincia l'inganno, si delinea già l'imbroglio, ma la storia non è terminata. Voltiamo il foglio. Ora che sei grandicello e che già frequenti la scuola, il tuo maestro ascolterai e tante cose imparerai. Lui è sapiente su tutto e tu invece non sai niente. Se desideri la promozione dovrai essere molto obbediente. È qui che continua l'inganno, si conferma già l'imbroglio, ma la storia non è terminata. Voltiamo il foglio. Ora che sei un giovanotto in divisa da militare, sempre allineato marcerai e ai superiori ubbidirai. Quando ti danno l'attenti sui talloni devi scattare, e quando ti danno il riposo piede sinistro devi avanzare. È qui che continua l'inganno, si conferma già l'imbroglio, ma la storia non è terminata. Voltiamo il foglio. Ora sei pronto per l'uso in ufficio o in officina, programmato per lavorare perché un padrone ti possa sfruttare. La sera la televisione ti conserva disinformato, però alla domenica in cambio ti addormenta col campionato. È qui che rimani fregato, non ti salvi dall'imbroglio, oramai ti hanno condizionato a voltare